l'idea dei playoff da sportivo. Ma intanto la ringrazio che mi date lo sportivo, perché come sai invece mi accusano di essere totalmente estraneo a tutto il mondo del calcio, dello sport. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Io ho convocato una riunione il 28 maggio della prossima settimana, quindi giovedì alle ore 15, con il presidente Gravina, il presidente della Lega di Serie A d'Alpino e tutte le altre componenti. Noi saremo nelle condizioni di avere tutti i dati a disposizione, anche rispetto all'evoluzione dell'emergenza sanitaria, per poter insieme in quella data col governo decidere la data, se e quando ripartirà il campionato. Sto rendendo conto in questo periodo che a cambiare idea non sono soltanto io, ma insomma cambio idea in tanti, penso anche alla UEFA che ha differito la data entro la quale data l'inizio del campionato. In ogni caso, come diceva lei, il format lo decidono giustamente le federazioni. Io credo che la cosa importante sia iniziare il campionato, se si inizia, per concluderlo. Io ho reagito con durezza perché mi veniva chiesto 3 settimane, 4 settimane fa, quando avevamo anche il problema di trovare ancora i posti nella terapia intensiva, di decidere ora e subito in quel momento la data di riapertura di un campionato. Ecco, questo lo trovavo veramente vergognoso rispetto alla situazione che in quel momento stava vivendo. Questa, diciamo, idea che io possa essere contro il calcio la trovo veramente all'inizio fastidiosa, ormai la trovo solo divertente, perché con tutto quello che noi stiamo facendo per il mondo dello sport, direi che quelle sono giustamente anche le speculazioni che capisco, fanno parte della fantasia, ecco. Buon pomeriggio a tutti, Anita Panizza, Claudio Schiattone, Filippo Aureggi, Gianmarco Ferronato, oggi al lavoro per tutti i convocati. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno. Radio Tweet, il tuo pensiero del giorno. Ma è Radio Tweet, ho visto qualcuno che ha scritto spadafora contro spadafora, in effetti insomma l'inversione a U degli ultimi 16 giorni è abbastanza clamorosa, però tu sai che io sono proprio laico e portato istintivamente al compromesso. Credo che spadafora si sia reso conto che la situazione, come lui stesso ha dichiarato, era in grande evoluzione di giorno in giorno, di settimana in settimana, e che quindi abbia ammorbidito le sue posizioni. Io ho avuto modo di parlarci qualche giorno fa, anche privatamente, ho ricavato la sensazione che di fondo non ci fosse una posizione preconcetta di antipatia nei confronti del mondo del calcio. Credo che lui sia rimasto appunto un po' legato a una visione ideologica o su altre priorità che in quel momento, 20 giorni fa, ci potevano essere. Oggi accolgo con felicità il fatto che si vada verso il tentativo di riprovarci, perché deve essere questo, deve essere un tentativo. Certo. La salute è la cosa più importante, però insomma intanto è un passo avanti secondo me molto importante. Sì. Ivan Zazzaroni, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Ciao, ciao Ivan. Tu invece non sei ancora riuscito a parlarci con il ministro, giusto? Ma io non ci voglio parlare. Come no? La differenza è quella lì. No, perché lui non era quello che diceva, non se ne parla, dice prima. Nessuno gli ha mai chiesto 4 settimane fa di dare una data, gli hanno chiesto semplicemente di accompagnare il lavoro della Federazione della Lega. Nessuno voleva la data quando c'erano 400 morti o 500 morti al giorno. E oltretutto su Facebook ha scritto delle cose che sono in totale contraddizione con quello che ha detto. È stato scavalcato dagli eventi e da una volontà politica che è cambiata, da un'opposizione molto forte. Da questo punto di vista, gente che tutti, che, e poi dalla Germania, perché se non avessimo avuto la Germania, oggi noi non avremmo il campionato di Serie A. Questo è un dato di fatto assoluto. Sì, io credo, credo per fare adesso un po' momento Milan, o non lo so, momento più politico, più strettamente politico, che ci sia stato nel momento più caldo l'opposizione anche all'interno del governo. Penso a Italia Viva, che sicuramente si è spesa con Nobili in una maniera molto molto forte. E proprio nella domenica in cui sembrava che stesse per arrivare il provvedimento che avrebbe chiuso per sempre la possibilità di riaprire il campionato, credo anche altri settori della maggioranza, e credo anche lo stesso Premier Conte, che da quello che ho capito insomma è stato sempre più prudente da questo punto di vista. Ti dico, io non ho la sensazione, non, Io rimango dell'idea che poi il ministro non ce l'avesse col calcio, però sicuramente gli errori di comunicazione, alcuni errori di comunicazione ha sbagliato Pier completamente gli interlocutori. Se non sbaglio, lui è quello che ha detto a un certo punto che c'erano 16 squadre nella Lega che non volevano giocare. Quindi non si poteva esserselo inventato lui, qualcuno gliel'aveva detto, qualcuno che non voleva il campionato, evidentemente. Questo secondo me è un altro tema, perché c'è il piano politico del governo e c'è il piano, secondo me, invece anche del fronte interno al mondo del calcio. Io lì ho qualche certezza in meno, nel senso che io penso che comunque qualche squadra che ancora oggi speri di non giocare ci sia. E poi io ribadisco per l'ennesima volta la mia posizione: si gioca se ci saranno le condizioni per poter giocare. Su questo sono d'accordo tutti, con Luigi. Ma le squadre che non vogliono giocare le conosciamo perfettamente, perché non è che viviamo su Marte, sappiamo chi sono, sappiamo quelli che hanno lavorato in quelle condizioni, sappiamo chi non è particolarmente favorevole alla ripartenza, anche se a me dicono personalmente che invece lo sono. Siamo nel campo delle ipocrisie assolute. Questo è molto fastidioso, Ivan, perché non puoi dire in 20 siamo tutti d'accordo e poi approfittare delle circostanze per lavorare. Siamo tutti d'accordo quando c'è da parlare con le televisioni per vedere di avere i famosi 233 milioni di euro dell'ultima rata. Poi il giorno dopo che tu hai fatto questa lettera, e non è certamente colpa di D'Alpino, anzi tutt'altro, c'è qualcuno che va a dire io non voglio giocare, non li faccio, questo non funziona. Allora l'unità ce l'hai un giorno e il giorno dopo non ce l'hai più, quindi è chiaro che sono più fronti, ma quello che dicevo io prima, cioè gli interlocutori privilegiati di Spadafora erano quelli che non volevano giocare, non quelli che volevano credo che questo il ministro l'abbia un po' capito. Poi ripeto, la capacità della politica è anche quella di anticipare le situazioni, per cui non è che mi sia piaciuto l'atteggiamento complessivo. Noi, mi ricordo, un mese fa, nei momenti più drammatici, dicevamo che bisogna avere la forza di un politico, la forza di un amministratore è quella di riuscire a immaginare con diversi scenari. Io credo una cosa, credo che un'istituzione non dovrebbe parlare su Facebook. Un'istituzione ha una sede, ha il sito del ministero. Non tutti i giorni su Facebook, oggi ce n'è un altro per lo sport di base, evidentemente, perché poi esci completamente dal sistema, non sei più istituzione, personalizzi la discussione, non va bene. Lo stesso ministro è quello che ha detto che le frange del tipo organizzato non erano d'accordo per la ripartenza, ma io vorrei soltanto comunicare alle frange del tipo organizzato che non sono d'accordo, e capisco perché non sono d'accordo, per tante ragioni. Perché quello lo stadio è il loro ufficio. Esatto, che non c'è la possibilità di aprire gli stadi, io non so come dirlo, cioè non è una volontà politica di non aprirli. Cioè non si può entrare allo stadio per un bel pezzo. In Inghilterra hanno detto che fino alla fine dell'anno le partite saranno a porte chiuse. Quindi quando tu dici bisogna tornare al calcio soltanto quando il pubblico può entrare, quando tu tornerai probabilmente non trovi nulla. Non trovi le squadre dentro lo stadio. Noi parliamo del 1° di gennaio, il 1° di gennaio non trovi almeno 10 squadre se rimangono inattive da oggi a gennaio. Certo, ma infatti poi è un po' il problema che sta succedendo nel basket. Poi già vi dico che ne parleremo dopo la borsa, perché abbiamo convocato Meo Sacchetti e altri ospiti, dove si sono affrettati a chiudere tutto dicendo ci rivediamo con la gente dei palazzetti con l'anno nuovo, poi si sono accorti che con l'anno nuovo dentro i palazzetti rischiano di non esserci club. In Germania giocano, vedi, a giugno riaprono anche il basket. È il solito tema sul quale torniamo praticamente tutti i giorni, cioè in ogni caso una convivenza col virus, cioè che sia adesso che sia sul campionato nuovo fra un mese. Ma è fondamentale. È comunque una soluzione la devi trovare, perché purtroppo non è che siamo nella condizione di dire stiamo un altro po' fermi e poi passa tutto. No, anzi, paradossalmente ci sono dei virologi che dicono che l'estate sarà più tranquilla dell'autunno-inverno, quindi paradossalmente è meglio giocare adesso che giocare a ottobre-novembre. Sì, col caldo, ti ricordi? È una delle ipotesi. A ottobre si parla di una virulenza, di una nuova recrudescenza del virus. Intanto avrei... però voglio dire, comunque sia, dobbiamo trovare una strada o decidiamo appunto che il calcio e lo sport di contatto è sospeso fino a quando non fino si sarà data da destinarsi il vaccino, uh-huh. Però significa che puoi arrivare veramente all'estate del 2022, non lo so, speriamo di no, del 2021, altrimenti bisogna trovare un modo che sia con un rischio che sia un rischio ragionevole, il rischio, certo, zero purtroppo non c'è in nessuna attività umana, per provare a capire se partendo dal presupposto che ci fa schifo. Ivan, io penso che tu abbia la mia stessa opinione, cioè la partita senza pubblico ci fa schifo, cioè siamo anni luce lontani da quello che è il calcio per come lo conosciamo e per come è bello e per quanto è bello, però è ovvio che se però in questo momento non puoi avere le due cose, è chiaro, no? E vedere le squadre che portano i libri in tribunale, perché in qualche caso di questo si parla, o magari non portano i libri in tribunale ma sono condannate a quel punto a una condizione che è una condizione disperata. Perdere delle risorse che poi a cascata si riflettono sul resto degli sport attraverso i contributi che il calcio dà al CONI, dalla Serie A alle serie minori, tutti i meccanismi di perequazione per aiutare le serie più piccole, lo sport di base, cioè è tutto un sistema, è tutto guarda, un meccanismo. Devo dirti, scusa, finisco, che da questo punto di vista, e questo va invece secondo me detto, e anche Gravina l'ha riconosciuto, i provvedimenti che sono contenuti nel decreto rilancio, quello aprile che poi diventa maggio, speriamo non diventi giugno, vanno in una direzione quasi storica, perché il calcio ha avuto una serie di risultati, il calcio e lo sport hanno avuto una serie di risultati con il Salva Sport, con la cassa integrazione fino ai 50.000 euro, cioè sono stati trattati in realtà con grande dignità dal mondo della politica, come è giusto che sia. Beh, anche con realismo, perché allora, io... questa potrebbe essere una grande occasione, scusa interrompo, per fare degli stadi nuovi. Nel senso che oggi tu con le porte chiuse non hai più case fuori. Tu puoi giocare in dove cavolo ti pare, in uno stadio naturalmente, con un'erba giusta e con spogliatoi adeguati, e nel frattempo cominciare i lavori per degli impianti nuovi e restituire al pubblico degli impianti nuovi. Ma non sarà... L'altro giorno, due settimane fa, hanno fatto una call su questo, con 2,5 miliardi di investimento. Cioè anche il ministro Padafora stesso ha detto no, passiamo ad altro. Cioè... bisogna ragionare in questi termini. Quando poi io leggo che Malagò vorrebbe un piano B, ma quale piano B? Ma cos'è il piano B? Non esiste piano B di fronte a società che non sono in grado di andare avanti, che non hanno liquidità, che non hanno circolazione di denaro, che hanno contratti da onorare, che hanno giocatori che chiedono i soldi, evidentemente non solo loro, e centinaia e migliaia di persone che ci lavorano dietro. Non può esistere un piano B, ma anche riunire tutte le componenti insieme. Ma in che mondo? Scusatemi, io vivo in Italia, voi dove vivete? Avete mai visto sedersi allo stesso tavolo senza litigare, non so, A, B, C, broadcaster, medici che si può, istituzioni di vario genere, federazione? Non riescono a andare d'accordo in 20, prova a immaginare in 50. No, questo è chiaro, è l'esperienza che lo insegna. Comunque possiamo festeggiare, se non il 25 aprile del calcio italiano, ritornando alle parole di ieri di Spadafora, almeno la fine del lockdown, inteso come immobilismo più oscurantista. E sì, ma non è finita. Perché adesso c'è il protocollo gara. Il protocollo gara, ho capito, Ivan, però da questo punto di vista anche i club fanno un atto di fede, cioè hanno detto va bene, rimettiamo in moto la macchina che costa un mucchio di quattrini, però rimettiamo in moto la macchina totalmente al buio. Carlo, perché... conosco i miei polli, non ci credo. Io ieri ho festeggiato relativamente, perché è sicuramente un grossissimo passo avanti. Perché senza quello tu non potevi andare avanti, evidentemente. Ma non ci fino a che non vedo il fischio d'inizio di una partita di Serie A, che possa essere il 13 o il 20 di giugno, io non ci credo. Perché saranno i colpi di coda, perché saranno quelli che non vorranno comunque giocare, saranno quelli che non vorranno pagare i giocatori, saranno quelli che non vorranno retrocedere. C'erano, ci sono, ci saranno. Sì, poi diventa anche difficile giustificarsi nei confronti di quelli che hanno cominciato, dell'UEFA stessa, e a proposito ho letto un'intervista di grande ottimismo al Guardian di Ceferin, che addirittura vede presto un ritorno del pubblico del negli stadi, non magari, so magari. Sì, ma non ha cambiato idea, Spadafora ha cambiato idea, non ha mai cambiato idea. Perché l'UEFA vuole giocare ed è disposta, lo dicevano anche tempo fa, ad aspettare 7 giorni in più, 8 giorni in più, non è quello che modifica, si può finire il 10 di agosto, no, ma intanto devi chiudere quello. E poi c'è anche un altro discorso in Italia, la Serie B, Cioè la Serie B deve allinearsi, per cui anche loro che vogliono giocare dovranno trovare il modo per giocare. Cioè, è una cosa ancora complicata, ma a me quello che interessa maggiormente, lo dico sinceramente, è far capire ai tifosi organizzati qual è la realtà delle cose. Cioè, non si può entrare allo stadio, ma non si potrà entrare allo stadio per mesi. E se si ferma la ruota, si ferma questa locomotiva che è la Serie A, noi ci ritroviamo veramente senza nulla fra qualche mese. Io credo, lo dicevo ieri, che questa possa essere l'occasione. Sono d'accordissimo sul discorso degli stadi, in generale io sono d'accordissimo sui cantieri. Questo è un momento, come tutti i momenti drammatici della storia, è un momento dove chi riesce ad avere più intraprendenza, più coraggio, più velocità nella reazione può costruire delle basi importanti. Certo, perché come tutti i momenti di cambiamento, di turbolenza della vita, ci sono equilibri che cambieranno, per cui così come ci sono delle regioni che vogliono passare come delle regioni dove non c'è il Covid, delle parti del mondo che proveranno a sfruttare questa cosa, poi è ovvio che ci deve essere la realtà, perché guarda, se poi invece il Covid c'è e c'è il focolaio, diventa un casino. Ma questo però è evidente. È un esempio, no? È chiaro che è un'occasione, ha ragione, io ho letto Bundesboom l'altro giorno, ha ragione Rummenigge a essere contento dal suo punto di vista, no? Ma questo è un discorso. Noi l'altro giorno c'è gente che ha visto la partita del Paderborn, che probabilmente non sapeva neanche cosa fosse Paderborn prima di questo, capisci? Quindi è chiaro che è un'occasione. Io sto aspettando emozionatissimo Bayern Monaco Borussia Dortmund, che è in programma martedì. Ma questa è una grandissima occasione. Quello che voglio dire è i tifosi, lo dicevo ieri, sono una parte fondamentale, ce ne siamo accorti per l'ennesima volta l'altro giorno, non è retorica, i tifosi vanno coinvolti in questo momento, perché in questo momento i tifosi sono in sofferenza, vanno coccolati, ci vuole un rapporto di disponibilità da parte delle società, bisogna inventare qualcosa, questa roba qui è importante, secondo me è importantissima, bisogna riuscire a far essere i tifosi protagonisti in questo momento, perché è un momento di sofferenza per tutti quelli che amano il calcio. Li puoi coinvolgere approfittandone per dare una mano ai loro club, perché ci sono tanti modi, no, per rendersi al di là del cartonato agli stadi del Borussia Mönchengladbach. Qualcuno sta dando una mano al club, perché vede degli striscioni comparire contrari al calcio, quindi stanno dando una mano ai loro club che non vogliono giocare, quindi c'è un bel rapportino che vorrei un giorno che facessero delle inchieste, però lì c'è abbastanza unità, a differenza del discorso delle inchieste, sì, esatto, sui rapporti tra società e ultra, perché l'ultra negativo parla, non ultra positivo, ma lasciamo stare. In ogni caso siamo tutti contrari agli stadi vuoti, ci mancherebbe altro, viviamo di questo da 40 anni e 30, quello che è. Lo stadio deve essere pieno e ci vogliono degli stadi assolutamente adeguati e rispettosi del pubblico che paga. Però ti dico, sul breve a me non dispiacciono neanche chiuse. Io ho visto tutte le partite della Bundesliga, mi sono divertito, mi sono concentrato sulle partite, ho visto gli arbitri molto più rilassati, ho visto meno reazioni sul VAR. E quindi per un po', magari uno o due mesi, fare un po' di depurazione da cori, striscioni, anti-napoletani, anti-questo, secondo me non è neanche malissimo, ti dirò. Cioè, mi sono concentrato sulle partite e sul gioco. Poi c'è anche chi dice se è tutto finto, tutto di plastica, eccetera, eccetera, perché non è mai contento. Però ha ragione per Luigi quando dice, ragazzi, questa qui è una grande occasione. Perché se domani ci fosse la possibilità per riaprire gli stadi, darei dei soldi miei, non tanti, ma insomma, cioè, sarei felice, ecco, diciamo sarei felice di questa cosa. però voglio dirti, e secondo me questo aspetto qui va coccolato, cioè il calcio deve approfittare di questa fase, questa sarà un po' una quarantena, no? Speriamo che tutto vada bene, che si possa giocare, portare a termine la stagione e salvare nei limiti del possibile i bilanci delle squadre. Nel frattempo utilizziamo questa fase per migliorare il gioco, per migliorare il rapporto con i tifosi, sicuramente, per dare ai tifosi la creatività non ci manca, la fantasia non ci manca, per migliorare le strutture, sicuramente. Allora, ma hai letto l'intervista di Alessandro Baricco oggi a Ferma Crosetti su Repubblica? No, ma adesso comunque, alle ore 15 vado a leggere. Molto bella, parla ovviamente di altro, però dice anche Baricco: ecco perché non ricomincia il campionato. Si attende che succeda qualcosa, non si scommette sulla novità. Vogliamo che scenda dal cielo la norma, invece di capire che servono più agilità, adattabilità e impermanenza, parola molto difficile ma bella. ed è questo il senso. Ma poi soprattutto continuiamo a dire usiamo questo momento per crearci un'occasione per il futuro, è esattamente quello che sta facendo la Germania, che conquisterà fette di mercato, conquisterà accordi commerciali, che renderà felici gli sponsor dato che le guarda tutto il mondo. Ma d'altra parte lo stesso golf ha ricominciato a porte chiuse, ha fatto record di ascolti mondiali, Carlo, planetari. Baricco ha detto con parole molto più ricche con me, quello che io penso da una vita, cioè che gli italiani pensano che domani mattina arrivi giù uno che faccia un miracolo perché esatto. Tutto sparisce. Esatto. Hai capito? Lui l'ha detto in maniera molto, in maniera straordinaria, perché è un grande lavoratore della parola, ma è quello. E lo ripeto da mesi, signori, cioè non è che domani mattina sparisce, magari così usciremo tutti belli tranquilli senza le mascherine, voi girate per strada, cioè a me viene la depressione, io non l'ho mai avuto in vita mia, ma vedere la gente con le mascherine, sì, vedere sì, la gente che sta lontana, quelli che se non hai la mascherina ti guardano come se avessero visto un appestato, cioè ieri ho visto a Monza una coda biblica per andare a prendere le cialde dell'Nespresso. Cioè, sembrava l'economia di guerra. Questo da un po'. E questa è normalità? Poi aggiungo un'altra cosa. Quelli che dicono che sono contrari al calcio, l'ho scritto l'altro giorno, cioè al calcio che vuole tornare a giocare, e poi veramente dopo chiudo. Ma voi siete rimasti in casa? Io sono uscito. Voi siete andati a lavorare? Siete andati al bar? Siete andati al ristorante? No, perché non ci va nessuno ormai, purtroppo. Cioè, non avete tentato di ricominciare a vivere? Ma perché è il caso di ricominciare a vivere? Cioè, no, ma è quello che diciamo tutti. Le squadre di calcio, la domanda è: per cosa sono nate le squadre di calcio? Per giocare. Giocare. Ragazzi, un'ultima cosa, siete disposti a barattare la ripresa anche con formule nuove? Perché si continua a parlare di playoff, che io applicati al calcio non li vedo, però fosse un'estrema razio sarei d'accordo. Ieri l'UEFA ha parlato della possibilità di finire le coppe con partite secche ai quarti e magari con una Final Four a Istanbul. Tutti d'accordo anche su questo? A me il playoff sul campionato non piace, ma non piace perché il playoff sarebbe un cambiamento di sostanza rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Sulla Champions, che io sono sicuro che si giocherà Champions Europa League, se un po' conosco l'UEFA non ho un dubbio sul fatto che lì si chiuderà al 100% la stagione. E sulla Champions tu puoi, e sull'Europa League tu puoi arrivare a una Final Eight, puoi fare quello che vuoi e non cambi più di tanto la sostanza, perché sì, certo, giochi a quel punto sui 90 minuti e non più sui 180, però alla fine in campo neutro, però alla fine sono sempre quelle due squadre che partono da 0-0. Sul campionato, secondo me, il playoff è molto arbitrario, perché qua in quante lo giocano? In 2, in 4, in 6, in 8? Che vantaggio dai a chi ha avuto più punti fino a questo momento? Cioè, Pier, io sono d'accordo, penso che il format poi è nato in un modo, finirebbe in un altro e non va bene, però sempre meglio finirla sul campo che finirla fuori dal campo. Il male minore è la conclusione in cui due squadre si affrontano, vince una, perde l'altra. Perché se invece chiude tutto come hanno fatto, cioè, voglio dire, anche la Scozia ha chiuso, mancavano tre partite, il Celtic aveva 164 punti di vantaggio sulla seconda, in Belgio mancava una partita. Non è difficile chiudere un campionato quando manca una partita e c'era il vantaggio del Bruges. In Francia hanno chiuso per tutt'altre ragioni che riguardano in particolare Bolloré e Macron. Sì. In Olanda hanno fatto all'olandese, hanno chiuso. Cioè, va tutto bene, ognuno. Però meglio il campo che i tribunali. Assolutamente. Sono d'accordo con te. Grazie Ivan, a presto. Grazie davvero Ivan. Pier, saluto anche te, poi parlo di basket perché sono curioso di approfondire quell'argomento lì con Meo Sacchetti, i due decani del nostro giornalismo a spicchi, cioè Vanetti e Chiabotti. Noi ci sentiamo domani. Ciao Pierino. Sì. Ciao. Ci fermiamo intanto per la borsa, torniamo subito dopo. Sì, il calcio senza tifosi è un colpo al cuore, ma è anche un colpo alle casse dei club. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Bayer Venezia è campione d'Italia 2019, supera un banco di Sardegna Sassari che esce a testa altissima. Adesso è ufficiale, i campioni d'Italia vincono la Coppa Italia 2020. Certo, il momento è difficile, nessuno lo nega, una situazione diversa da quella del calcio. Io rispetto il calcio, vengo anche dal calcio, sono tifoso di calcio, per cui se il calcio riparte sarò lì davanti alla televisione a guardarlo, però la situazione è completamente diversa. Noi abbiamo fatto questa scelta di chiudere e abbiamo avuto ragione, perché poi nessuno ci ha dato torto. Allora, metti un giorno, cioè questo, intorno a un pallone da basket e a un microfono, i due decani del nostro giornalismo a spicchi, cioè Flavio Vanetti e Luca Chiabotti. Saluto entrambi, naturalmente. Grazie per i decani. Grazie. Buongiorno. E c'è anche il coach più importante del nostro basket, che ha il doppio ruolo, ovviamente, di coach di Cremona e della nazionale italiana. Ciao Meo Sacchetti. Buongiorno. Ciao, sei in buona compagnia. Parto da te per chiedere, abbiamo sentito nell'incipit Petrucci, presidente della Federbasket, 10 giorni fa ai nostri microfoni, dire quello che ha detto. Siamo tutti d'accordo, Meo? Beh, sicuramente, voglio dire, tu parlavi sull'interruzione del basket, sì, che abbiamo fatto per prima. Beh, sicuramente è stata una scelta giusta, anche durante quel periodo lì molto intenso con tutti questi morti, penso che lo sport era giusto che passasse in secondo, sì, secondo piano, sicuramente. Anche col senno di poi e con la Bundesliga che riparte, Luca? Ma c'è da chiedersi se appunto il fine ultimo di un campionato professionistico non sia quello di giocare, no? Ma appena si può e come si può. Anche se poi il risultato sportivo sarebbe del tutto aleatorio e la mancanza del pubblico toglierebbe probabilmente il 50% dell'interesse. Io credo che forse, siccome ci sono grandi leghe che come la NBA, ovviamente senza farla paragone, o l'Eurolega, che provano a ripartire, solo grandi leghe possono ripartire, nel senso che noi abbiamo un po' troppi problemi, forse anche di impianti, di tutto, per poterci pensare. Però io credo che i professionisti debbano comunque pensare di ripartire, ecco. Flavio? Ma io credo che alla fine sia stata una scelta giusta, ma proprio per una questione banalmente economica, di quella che è la caratteristica del nostro basket. Abbiamo una realtà che si basa sul pubblico, sugli incassi, e non c'è la garanzia di poter avere questo. Poi, se vogliamo, è anche giusto pensare a una ripartenza anche con l'aspetto positivo di guardare avanti, di cercare anche di esorcizzare questa brutta cosa che è capitata. Ma bisogna essere anche molto concreti e realisti. Ecco, tra l'altro io sono anche un po' dubbioso sul fatto che si possa davvero, che valga davvero la pena riprendere una data come quella del 27 settembre, anche se forse c'è la garanzia che in qualche modo si riuscirà a riaprire tutta l'impiantistica, ad avere comunque un afflusso di gente. Secondo me forse era meglio aspettare un po' più avanti, per quanto possa capire anche la preoccupazione di un Petrucci o anche di un Gandini, che so capo della Lega Basket, di far ripartire il basket, anche perché ci sono altre realtà che vogliono farlo, quindi il rischio è anche ma vedi, il problema è anche un altro, e torno da Meo Sacchetti. C'era chi diceva all'inizio, fino all'anno nuovo niente basket, perché non si può giocare con i palazzetti chiusi, perché gran parte dei nostri introiti derivano dal botteghino, e tutte queste sono cose che sappiamo. Ora mi sembra ci sia una corsa contraria a iniziare prima possibile, perché si è capito che non so in quanti possono sopravvivere fino all'anno nuovo senza giocare, Meo. Ma beh, sicuramente questo qui è un problema che molte società stanno valutando. Però il discorso è che noi stiamo facendo tante ipotesi sul niente. Perché il problema è che adesso stiamo già aspettando, abbiamo paura che riprenda la curva. Non sappiamo come sarà sicuramente l'impatto che ci sarà. Faccio un esempio sul campionato italiano di calcio. Cioè, voglio dire, davanti a questo, quando venderà, quando partirà questo, come partirà, che non si sa più come, quando e tutto, però siamo ancora là con delle cose, delle ipotetiche, perché si pensa che le cose vadano sempre migliorando e quello ci aspettiamo tutto. Però voglio dire, parliamo sempre del solito discorso, se iniziamo a fare una cosa e c'è un incidente di percorso che si blocca qualcuno dentro nella società, che uno o qualcuno degli addetti o anche un arbitro abbia dei problemi, non so poi come sia la conseguenza, però voglio dire, per me stiamo ancora parlando di poco. È logico che tutti vorrebbero fare una cosa così, ma che vorrebbe dire che vediamo la luce, ci mancherebbe altro. Sì. I giocatori, gli allenatori, penso che anche il pubblico di vederla magari in televisione, tutto quello che aspettiamo, però ancora noi adesso siamo ostaggi di questa situazione. È logico sperare di vedere la luce, però voglio dire, non siamo ancora noi i capi di questo. Si continuava sempre a dire che le decisioni sono nostre e non nostre, fino adesso le decisioni sono prese da altri. Sì, sì. Ti lascio una domanda di Luca e di Flavio, che comincia, ordine alfabetico, Luca Chiabotti. Sì, pronto. Eccoci. Ciao Luca. Ciao. Sì, beh, è chiaro, comunque sia molto, molto italiano il fatto di, e forse un po' di tutti, il fatto di prima frenare e poi dopo voler ricominciare da capo. Tutto quello che ha detto Sacchetti, Flavio, è corretto. Io dico sempre che probabilmente solo un movimento molto maturo, una Lega molto matura, riuscirebbe a essere così tempista e così pronta e a investire così tanti soldi per poter bloccare sul nascere qualsiasi tipo di problema che potrebbe avere la riapertura. C'è uno positivo, tamponi, in un giorno sapere tutto, isolazione, cioè tutte queste cose. Ecco, credo che sia forse giusto aspettare il nuovo anno, sperando di ripartire il più possibile col pubblico, altrimenti non avrebbe molto senso aver aspettato. Sì, Flavio, vuoi chiedere qualcosa a Mio Sacchetti? No, io in realtà, se poi una domanda, ma io la voglio fare, però volevo porre un attimo un accento su un aspetto, che è quello della missione al campionato. Allora, sì, per partire al 27 settembre, le squadre, diciamo, e con la Supercoppa che si gioca a fine agosto, le squadre devono, diciamo, radunarsi al più tardi all'inizio di agosto, fine luglio, inizio di agosto, ma poi la missione delle squadre del campionato verrà stabilita in base ai parametri Comtec all'8 di agosto. Allora, mi spiegate come fa uno a fare una squadra se poi magari si ritrova dopo aver firmato dei giocatori contratti che non viene ammesso alla Serie A? Questo è un altro aspetto, secondo me, che è stato valutato in maniera molto superficiale, creando anche dei danni a chi deve fare la squadra. Allora, una squadra che adesso deve cercare i giocatori, che cosa fa? Li firma e poi dopo magari si ritrova fuori, sbattuta fuori dalla Serie A, non lo so. Mi sembra che anche questa sia stata una cosa non molto azzeccata. Eh sì, Meo, anche perché è incerto il numero e l'identità dei partecipanti al prossimo torneo. Torino è stata ammessa d'ufficio, promossa d'ufficio, vediamo che succede. Roma sembra si stia chiamando fuori, Pesaro è in bilico, c'è chi si lamenta su tutto questo, c'è l'idea del blocco promozione e retrocessione che secondo me per lo sport italiano è una follia. In questo momento è vero che non si può giocare, però si deve cominciare ad organizzarsi. Beh, sicuramente ci dovrebbero essere da parte di tutte le società una valutazione sicuramente di questo, perché voglio dire, per certe società sarà un danno lieve, per certe società è un danno più grande, perciò ci deve essere molta serietà nella decisione di fare, che campionato fare, perché voglio dire, poi sai, andare a fare i conti in tasca agli altri, siamo tutti bravi, però ci vuole che qualcuno a un certo momento decida cosa posso fare, se posso stare in un basket di elite o non posso stare in un basket di elite. Perché il problema di questo è solo un discorso di professionismo. Il professionismo costa di più, certo. È logico che ci sono delle altre situazioni, però bisogna arrivare ad avere delle decisioni in fretta, anche per poi decidere che cosa sia del campionato, delle squadre, non delle squadre. È logico che si sta valutando tutto questo, però molta gente stia decidendo anche questo. Da allenatore di Cremona e da CT della Nazionale, la Nuova Lega, Lega che tra l'altro settimana prossima compirà 50 anni, auguri, glieli faremo in diretta. Nuova Lega presieduta da Gandini, ecco, cosa chiedi personalmente? Cosa chiederesti? Ma guarda, abbiamo fatto cosa. Adesso il problema della Lega è che in questo periodo qua abbiamo fatto tante conference call impressionanti. Noi per la prima volta 17 allenatori della Serie A si sono trovati a parlare, a discutere di problemi, di tutto. Poi abbiamo avuto delle conference sicuramente con gli allenatori della Lega 2, della Serie B, anche con i non professionisti, quelli del settore giovanile. È arrivato alla fine, tra tanti problemi che ci possono essere alla Nazionale, noi come allenatori abbiamo sicuramente individuato questo. Noi senza offesa pensiamo di essere una parte importante della pallacanestro italiana e ci vuole che noi possiamo incidere sicuramente su questo, perché siamo i tecnici della pallacanestro e abbiamo chi più chi meno una profonda conoscenza della pallacanestro. Il ruolo dell'allenatore è stato sminuito molto negli ultimi anni, in cui sono state delle situazioni in cui non parlo forse neanche tanto a livello professionistico, ma a delle categorie più indietro in cui non era tutelato in niente. Però penso che se adesso si voglia ripartire da queste cose, penso che sentire una parte di una voce tecnica dentro in un movimento in cui il gioco è la parte più importante, dovremmo essere anche noi una parte più importante in questo momento. Io sono d'accordissimo, vi chiedo a tutti un secondo di pazienza, traffico e poi ti lascio il mio sacchetto e le domande di Vanetti e Chiabotti. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque Luca, vuoi chiedere qualcosa a me? Hai qualche domanda per il CT o per il coach di Cremona? O per tutti e due? Ma per tutti e due ovviamente, cominciamo col CT. Mi piacerebbe sapere, vista il grande rinnovamento in atto nella Nazionale e vista l'età un po' tarda delle cosiddette stelle della nostra squadra, se lo spostamento dovuto a delle manifestazioni internazionali di un anno e nella fattispecie dell'Europeo, quindi che sarà fra due anni, in Italia che sarà fra due anni, cambia un po' la prospettiva della sua Nazionale o è troppo presto per dirlo? Io non penso che cambi, perché abbiamo davanti l'esempio, faccio un esempio di un giocatore come Scola che ha 40 anni e che ancora voglia di giocare la sua quinta Olimpiade. È logico che quello che è successo penso che dia una molla ancora di più ai nostri giocatori che sono fuori dall'Italia, quelli che fanno l'Eurolega, quelli che fanno l'NBA, forse perché si sente sempre questo attaccamento all'Italia in questo momento qua. Penso che anche loro siano, non dico più motivati di questo, ma sicuramente abbiano qualche stimolo in più dopo quello che è successo, perché noi siamo stati un po' al centro dell'attenzione dopo la faccenda della Cina. Perciò, al di là dei problemi fisici o tutto, io penso che questi giocatori siano ancora giocatori di alto livello che possano sicuramente dare un'impronta importante nell'eventuale preolimpico, voglio dire, questa è la parte importante. Probabilmente i ragazzi dietro di giovani ci sarà un vantaggio, perché avranno un anno in più di acquisizione di gioco importante per cercare di migliorare. Sotto questo aspetto, per me, sull'impegno del preolimpico potrebbe essere un qualcosa di di più importante. È logico che non ci aspetterà una passeggiata, però questo non lo vedo nell'abbandono, come si può dire, dei grandi vecchi. Penso che abbiano delle motivazioni importanti, sicuramente. Il ricambio generazionale può aspettare. Flavio. Ma io volevo chiedere invece a me una cosa su Cremona, che diventa una specie di Club Italia, che sicuramente è stata una bella idea anche dal punto di vista della comunicazione, in un momento in cui si può comunicare poco o nulla, ma al di là di questo credo che, spero ci sia anche una sostanza dietro, e la domanda è anche un po' legata invece a quell'idea che tra l'altro anche proprio Gandini stesso aveva anche un po' buttato lì, di lasciare un po' liberi tutti su come costruirsi le squadre, cioè quindi andare al di là di quelli che sono i vincoli 5 più 5, 6 più 6, ognuno fa la squadra con gli stranieri che vuole e con gli italiani che vuole. Ecco, come la vedi e anche il rapporto appunto all'esperienza che vi apprestate a vivere? Beh, sicuramente sul discorso di Cremona, innanzitutto si sapeva, si sa che un eventuale impegno di Vanoli, per dire, sulla squadra ci sarebbe stati dei problemi di budget, non di budget, e allora volevamo fare questo progetto un pochettino accattivante, in modo da capire, sull'esempio anche che avevamo fatto sugli altri ragazzi che sono venuti, faccio un esempio di Ricci, di Luzier e di Achele, che li abbiamo tenuti un paio d'anni e questi giocatori sono cresciuti, hanno iniziato a crescere un pochettino, e allora volevamo fare anche una scelta un pochettino con questi ragazzi giovani, di provare a tenere un paio d'anni per farli crescere. Poi sapevamo benissimo che magari non si possono tenere, però un conto è uno straniero che arriva da noi, fa un buon campionato e lo perdi subito perché non puoi competere con le altre società. Però sul discorso degli italiani, un discorso di crescita, sicuramente per dargli questa opportunità di spazio, era una cosa che volevamo fare. È logico che noi dobbiamo rispettare un budget, e allora non possiamo andare a prendere i giocatori. Facciamo il discorso, è venuta fuori la voce di Vitali. Non è un giocatore che possiamo noi permetterci... Meo. Non possiamo permetterci, perché l'idea è bellissima, però deve essere realizzabile a condizioni di mercato, perché se italiano ti costa il doppio di un americano o di un non esiste. La nostra idea era di andare a prendere dei giocatori che ci piacevano, che potevano avere un miglioramento in un certo momento, che ci avrebbero aiutati a crescere e a fare un certo tipo di programma di almeno 2 anni, in modo da farli crescere. La maniera non è che andavamo a prendere i giocatori di top, noi volevamo prendere quei giocatori di medio-basso livello che giocavano poco in Serie A1, oppure si giocavano un pochettino in 2, per arrivare a provare questo. Poi è logico che era una cosa difficile, una cosa rischiosa, ma se a questo punto qua, nel nostro specifico caso, non andiamo a fare qualcosa, non dico di innovativo, ma di forzare qualcosa, bisogna anche avere il coraggio ogni tanto di fare qualcosa di più di quello che possa essere un progetto. E sul discorso invece di una composizione libera delle squadre, cui faceva riferimento Flavio, cioè senza troppe normative, troppe burocrazie, troppi regolamenti, ognuno faccia la squadra come ritiene sia possibile. Io non so se è una cosa possibile, sarà possibile quest'anno o non quest'anno, ma se vogliamo fare un discorso di basket professionistico, ci sono squadre che hanno delle ambizioni e delle aspettative diverse. Facciamo conto che ci sono 3 o 4 squadre del nostro campionato che hanno una disponibilità e delle ambizioni diverse da tutte le altre squadre. Tutti vogliono giocare per vincere questo ipotetico scudetto, ok? Però facciamo un esempio. Ditemi negli ultimi anni chi ha mai vinto uno scudetto senza essere una squadra che avesse un budget da prime 3 o 4 squadre. Non è mai successo. Ci è capitato a noi, che abbiamo vinto la Coppa Italia, perché la Coppa Italia è una situazione di una partita secca, di incroci, di periodo, e lì può succedere che può vincere non la favorita, ma nel campionato italiano sicuramente è difficile che abbia vinto un campionato una squadra che non avesse le potenzialità da te. Perciò c'è questa differenza qua di questo. E il problema è che se vogliono fare il basket professionistico, facciano il basket professionistico per andare ad alti livelli e possono avere delle altre possibilità, però qualcuno deve giocare in questo modo e gioca in questo modo sapendo benissimo che è un rischio e vuole andare a scontrarsi con questi. Cioè, voglio dire, nel calcio, che ne parliamo tanto di calcio, cioè, voglio dire, ci sono situazioni di Inter, Juventus, altre squadre che hanno un budget incredibile, poi ci sono squadre che lotteranno per la salvezza e poi ci sono squadre come l'Atalanta, che è una squadra che di solito è medio-bassa ed è un paio d'anni che fa delle cose di altissimo livello senza avere un budget incredibile. Però, voglio dire, il problema è questo. Sì, sì. Ci devono essere due linee. Anche se, curiosamente, ma anche vorrei dire fortunatamente, nel basket italiano c'è chi ha speso più soldi negli ultimi anni, cioè Milano, che ha raccolto non tantissimo, a differenza di Sassari, e me tu lo sai benissimo, di Venezia e di altre squadre che hanno un budget inferiore. Volevo chiederti ancora una cosa, poi ti saluto, Meo. Playoff sì. Nel calcio, altro discorso di cui si parla molto oggi, collega De Ponzio, Corriere della Sera, intervista un po' di allenatori, ma il tuo parere non ho ancora sentito. Ma guarda, il problema del calcio è che è difficile davanti alle novità, hai capito? Ci ha messo un pochettino per gli stand play e queste cose qui. È un mondo che prima delle novità deve riuscire a capire qualcosa. Da allora non ci sono i playoff, e allora nei playoff è più facile che si possa ribaltare qualcosa che non in un campionato regolare, perché noi abbiamo l'esempio di campionati in cui chi è che ha finito la regular season prima certe volte non ha vinto, capito? Mentre nel calcio è una cosa diversa, è una cosa di entrare nella mentalità del calcio, è una cosa difficile per loro da accettare, non so quanto sarebbero. Sono d'accordo con te, grazie Meo, ti abbraccio. Niente, ciao, a prestissimo, ciao. Lo chiedo anche a voi ragazzi, Luca, playoff nel calcio? Ma non credo, anche per la necessità di fare delle serie lunghe per avere un risultato tecnico plausibile, se no diventa una lotteria magari meravigliosa, divertentissima, oppure la partita secca del mondiale di calcio, però non rispecchia poi i valori della stagione. Da sempre l'impressione di essere un vestito che non si adatta. Sulle 5 partite con al massimo 3 giorni fra una partita e l'altra si può fare, ma francamente per il calcio sarebbe un cambio francamente troppo. Sono d'accordo, Flavio? Sì, concordo anch'io, mi sembra proprio un problema di ordine culturale, ma forse anche se non durerebbe un po' quella che è la storia tradizionale del calcio. Poi facciamo un ragionamento da appassionati di basket, teniamoci i nostri playoff. Bravissimo, ciao ragazzi, grazie davvero. Ciao, grazie Flavio Valenti, Luca Chiabotti, a tutti voi che ci avete seguito, a Anita Panizza oggi in redazione con Claudio Schiattone, Filippo Aureggio, Marco Ferronati in regia. Ciao a tutti, a domani. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy. Saluti.